la la la la la la la la la la la la. Danza, danza, danza, spaccami il cuore con la tua eleganza. Fammi morire che con te l'amore è come quasi bruciare il sole. Danza, danza, danza, spellami gli occhi con la tua presenza. Fammi vedere che io non ho mai visto tanta bellezza in un solo gesto. Danza la tua danza, occhi belli a luce spenta. Le tue mani che profumano grano, il tuo viso un bel campo di fieno, il tuo corpo che domanda risposte, il tuo sguardo sono mille carezze. La tua danza donami amore, amore fammi, fammi morire. Lai, lai, la, la. Danza che danza sia, offrimi amore la tua pazzia. Scalda il mio cuore osceno. Prendimi amore senza alcun freno. Di sfuggita ti struscio di lato. Lasciami un segno anche senza fiato. Basta che sia la tua danza amore, una sinfonia senza pudore. Danzami l'infinito, fammi toccare il tuo paradiso. Danza la luce del fuoco. Saliamo insieme a poco, incrociati come delfini del mare. Vienimi addosso, stella di sale. Danzami amore dentro la nebbia. Danza mio sole sotto la pioggia. Lai la lai la la.